Isvara. State ascoltando Radio Isvara. Hare Krishna da Ramananda Das, a tutti gli ascoltatori di Radio Isvara. È un piacere riproporvi oggi, primo giorno dell'anno, che poi in realtà il nostro podcast settimanale esce sempre nella notte tra giovedì e venerdì, quindi magari qualcuno, tra l'altro un'ora prima, di solito alle 23 esce il nuovo podcast, noi mettiamo sempre già la data del venerdì, ma esce sempre alle 23 del giovedì, quindi magari qualcuno, chissà, ci ascolterà ancora alla fine nell'ultima ora di conclusione di questo anno 2020, un anno che sicuramente ha dato a tutti noi la possibilità di riflettere sulle cose superflue, ha dato la possibilità a molti di noi di concentrare la mente e il corpo tramite il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sui valori fondamentali della vita in questo corpo materiale, in questo mondo materiale, della relazione tra gli esseri umani e la natura, la grande importanza che hanno gli animali e la natura. Noi devoti di Krishna in primis non mangiamo animali, come sapete, non ci cibiamo di carne animale né carne di alcun tipo, se non carne vegetale, adesso tanto di moda eventualmente, e è stata un'occasione di cambiamento e di crescita per tutti questo anno 2020, e appunto lo ascoltiamo insieme il nostro Gurudeva, che nel 2006, alla fine del 2006, augurava a tutto il pubblico di Svara.org un buon 2007. Adesso invece auguriamo a tutti un buon 2021 in coscienza di Krishna con noi di Radio Ishvara. Grazie per essere con noi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica radioishvara@gmail.com. Rimanete con noi, se volete collaborare, collaborate, scriveteci, rimanete in ascolto, e grazie ancora a tutti i radioascoltatori e grazie a Gurudeva che ci ha dato la possibilità di avere di nuovo Radio Ishvara con noi. Grazie di cuore a mio titolo personale per aver avuto l'incarico di coordinare questo progetto. Grazie a tutti. Hare Krishna da Ramananda Das. Hare Krishna, buon anno nuovo a tutti da parte di Isvara.org. Allora un altro anno è finito. Diamo addio al 2006 e diamo un caldo benvenuto all'anno 2007. Tutti i devoti di Isvara.org e in realtà tutti i devoti Hare Krishna e io vi auguriamo che vi accada il meglio possibile nell'anno che sta arrivando. Cosa succederà a Isvara.org nel 2007? Quali sono i piani e le notizie? Beh, sicuramente un sacco di cose succederanno, un sacco di cose positive, ci auguriamo. In gennaio torniamo in India, a Vrindavana, torniamo a casa. Io, e quando dico io, vuol dire sempre io e Isvara. Siamo stati circa 2 anni in America Centrale, in America del Sud. E gli ultimi 6 mesi siamo stati in Costa Rica, abbiamo vissuto, praticamente non siamo andati da nessuna parte se non una puntata di pochi giorni in Nicaragua. E beh, io ho fatto quello che dovevo fare nel servizio. L'11 di gennaio partiamo, abbiamo già i nostri biglietti pronti. Andiamo a Houston, Los Angeles, ci fermiamo 3 giorni a Los Angeles. Non sono mai stato lì, sarà molto bello, molto interessante. Il 15 voliamo a Tokyo, poi a Singapore. Il 17 a notte saremo a Sri Vrindavanadham in India. E quanto ci fermiamo in India, questo non si sa realmente. Dovrei tornare in Sud America, ma dubito che sarà possibile prima di almeno un anno. Vedremo, noi abbiamo i nostri piani, Krishna i suoi, e vedremo quello che succederà. Prenderà un po' di tempo per organizzarci di nuovo, la casa, l'ufficio, tutto. Allora, per quanto riguarda gli Isvara video, dall'India metteremo online molti video, molto netti, molte cose bellissime. Non lo crederete, semplicemente continuate a venire e vedrete. Metteremo sul video molti devoti, molti uditi, ascolterete da loro, molta musica, molte canzoni, molte danze. A loro piace danzare quando fanno i kirtan e quando cantano di Krishna. Vi mostrerò molti luoghi santi, quando dico tutti, non posso dire tutti in realtà, perché i luoghi santi di Vrindavanadham sono infiniti, però ne vedrete tanti. Con le spiegazioni, naturalmente, cosa è successo in quel luogo e via dicendo. Continuate a venire su Isvara.org e vedrete molte novità nei prossimi mesi. Poi Radio Isvara. In India le nostre conferenze dal vivo su Skype saranno più frequenti, con così tanti devoti diversi in tutte le lingue. Vrindavana è internazionale. C'è così tanta gente da tutto il mondo. Potete ascoltare alle loro classi, fare domande, ricevere risposte da differenti angolature, differenti prospettive, molto interessante. Il 2007 sarà l'anno della libreria, del negozio dei libri su Isvara. Pubblicheremo molti libri, in varie lingue anche questo, e sarà molto facile per voi acquistarli online e godere della coscienza di Krishna, entrare in coscienza di Krishna. Quindi acquistate i nostri libri, non ve ne pentirete, vedrete, vi piacerà. Per quanto riguarda il libro di negozi online, stiamo lavorando su qualcosa assolutamente rivoluzionario. Adesso non diciamo niente, vedrete, però sarà una vera rivoluzione. Naturalmente i nostri giornali quotidiani in inglese, italiano e spagnolo continueranno e speriamo che potranno incrementare il numero di articoli e la qualità. Il mio blog personale, Kadacha, e anche la biblioteca. Ora abbiamo circa 28.000 documenti su Isvara.org e aumentano tutti i giorni, molti. Per quanto riguarda la gente che viene a visitare Isvara.org, tanta, da tutte le parti del mondo, potete vedere le statistiche sui nostri giornali. Ci auguriamo che la gente che viene a visitare i nostri siti partecipi di più, siete invitati a partecipare. Il 2007 sarà un grande anno per Isvara.org. Spero che sia lo stesso per tutti voi. Dunque, buon anno nuovo a tutti. Hare Krishna. State ascoltando Radio Isvara. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Isvara. Hare Krishna. Disse a sua madre: cara madre, a vedere gli uccelli che se ne stanno appollaiati tutti attenti sui rami degli alberi, incapaci di staccare il loro sguardo a Krishna, il suonatore di flauto, si direbbe che abbiano dimenticato tutto per immergersi esclusivamente nell'ascolto del flauto di Krishna, rivelando così di non essere uccelli come gli altri, bensì grandi saggi e bhakta che per ascoltare il flauto di Krishna hanno assunto forme di uccelli nella foresta di Vrindavana. I saggi e grandi eruditi volgono il loro interesse al sapere vedico, di cui la Bhagavad Gita rivela l'essenza. Vedaischa sarvair aham eva vedya, conoscere Krishna. Dal loro comportamento sembra che questi uccelli siano stati grandi eruditi nel sapere vedico, ma che ne abbiano rifiutato tutte le differenti forme per dedicarsi esclusivamente alle vibrazioni assolute di Krishna. Dal libro di Krishna di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questa è Radio Isvara. La Bhagavad Gita è universalmente riconosciuta come il gioiello della saggezza spirituale dell'India. Esposta da Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, al suo grande devoto e amico Arjuna, con i suoi 700 versi fornisce una guida completa a chi desidera intraprendere il cammino della realizzazione spirituale. Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. Sanjaya disse: «O Dhritarashtra, dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pandu schierato in ordine di combattimento, il re Duryodhan s'avvicinò al suo precettore e gli rivolse queste parole». Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cieco dalla nascita, Dhritarashtra soffre sfortunatamente di un'altra infermità. È privo di visione spirituale. Sa bene che i suoi figli, ciechi quanto lui sul piano della spiritualità, non arriveranno mai a un accordo con i Pandava, la cui fede è innata. Sanjaya, suo segretario, sa che il re teme l'influsso della pianura sacra sull'esito della battaglia. Conosce lo scopo delle domande del re e per mitigare il suo scoraggiamento gli assicura che i suoi figli non accetteranno alcun compromesso nonostante l'influenza del luogo santo. Lo informa che Duryodhan ha appena valutato le forze militari dei Pandava e si dirige ora verso il comandante del suo esercito, Dronacharya, per descrivergli la situazione. Duryodhan, sebbene sia il re, come indica questo verso, deve consultare il capo delle sue truppe. Talmente grave è la situazione. Abile politico, egli non riesce tuttavia a nascondere la paura che gli incute lo schieramento dei Pandava. State ascoltando Radio Isvara. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato La guerra. Nel finire della scorsa puntata eravamo arrivati quando Srila Prabhupada, allora Abai Charande, era finalmente riuscito a stampare la sua prima rivista, Back to Godhead, Ritorno a Krishna. Una pubblicazione di 44 pagine. Abai salutò i suoi lettori con la definizione del suo motto: Dio è luce, ignoranza è oscurità. Quando l'uomo, dimentico di essere figlio di Dio, si identifica con il corpo, allora si situa nell'ignoranza. È simile a un uomo che si preoccupa del meccanismo di un'automobile senza aver conoscenza di colui che guida. Il difetto della civiltà attuale consiste proprio in questo. In realtà questa è la civiltà dell'ignoranza o dell'illusione. E per questa ragione la civiltà si è trasformata in militarizzazione. Ogni individuo si interessa esclusivamente delle comodità relative al corpo e di ciò che si riferisce al corpo, disinteressandosi dello spirito che muove il corpo. Benché anche un ragazzo possa realizzare che il meccanismo di una vettura a motore ha ben poco valore se il guidatore non è presente, nonostante questo, questa pericolosa ignoranza dell'umanità è una grossolana mancanza di conoscenza e ha determinato una civiltà pericolosa nella forma di militarizzazione. Questa militarizzazione, che in un linguaggio più morbido è definita nazionalismo, è una barriera esterna alla comprensione delle realizzazioni umane. Non vi è significato in una lotta in cui le parti si scontrano soltanto per la definizione dei differenti colori dei vestiti. Deve essere presente quindi una comprensione della realizzazione umana, senza alcuna considerazione delle designazioni corporee, ossia del colore dei vestiti. Back to Godhead è un debole tentativo del sottoscritto, realizzato sotto la direzione di Sua Divina Grazia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, il famoso fondatore e organizzatore delle attività della Gaudiya Math, al solo scopo di educare l'umanità alla vera relazione, la relazione centrale con Dio, la Persona Suprema. Che vi sia un grande e urgente bisogno di una letteratura di questo genere è vivamente sentito dai leader di tutti i paesi e le affermazioni che seguono faciliteranno molto la procedura. Era il 1944 e Abai si rivolse in modo specifico alla crisi in cui il mondo intero versava. I capi politici del mondo avevano espresso il loro disappunto per le sofferenze e per l'indigenza delle popolazioni. Dopo 4 anni di lotte che erano costate milioni di vite umane, la Seconda Guerra Mondiale in 20 anni stava ancora flagellando la Terra. Benché la fine fosse in vista, i capi esprimevano non tanto la felicità e la speranza, quanto la stanchezza e l'incertezza. Anche se questa guerra finiva, non ci sarebbe stata un'altra guerra? Non aveva l'uomo ancora colto la lezione vitale sul modo di vivere in pace? Abai citò l'arcivescovo dell'India. L'India, guidata da Dio, può guidare il mondo all'equilibrio. Citò il presidente degli Stati Uniti. Perciò un programma di riarmamento morale può sicuramente diminuire i pericoli di un conflitto armato, affinché tale riarmamento morale possa essere efficace al massimo grado, deve ricevere il sostegno di una vasta base mondiale. Egli ricordò il presidente Herbert Hoover, il quale aveva affermato che il mondo ha bisogno di tornare agli ideali morali e spirituali, e citò la risoluzione della Camera dei Comuni britannica, la quale affermava che i principi spirituali sono patrimonio comune a tutte le genti e che gli uomini e le nazioni hanno l'urgente esigenza di riconoscere la sovranità di Dio. Egli citò Wendell Willkie, il quale, tornando dalla Russia, aveva riferito che milioni di russi erano stati uccisi, feriti o erano dispersi nella guerra, mentre altri milioni di persone soffrivano per la terribile carestia invernale e per l'assoggettamento. Ciò che è vero per il popolo russo, scrisse Abai, è anche vero per gli altri popoli, e noi indiani sentiamo la medesima penuria, la medesima mancanza e il medesimo disgusto. Egli citò il segretario degli esteri inglese, Anthony Eden, che al colmo dell'indignazione lamentava le miserie della guerra. Citò l'arcivescovo di Canterbury. In ogni quartiere della terra gli uomini desiderano essere liberi dalla maledizione della guerra e vogliono trovare sollievo dall'asprezza e dall'amarezza fino a quel momento sperimentate in modo che abbia riconquistato la pace. Molto spesso essi vogliono il regno dei cieli senza re, il regno di Dio senza Dio, e non possono averlo. La nostra risoluzione deve essere il ritorno a Dio. Facciamo piani per il futuro, per la pace tra le nazioni e per la sicurezza civile in patria. Questa aspirazione è giusta e sarebbe sbagliato trascurarla, ma tutti i nostri piani finiranno col naufragare contro lo scoglio dell'egoismo umano se non ci rivolgeremo verso Dio. Tornare a Dio, questa è l'esigenza essenziale dell'Inghilterra e di ogni nazione. Egli citò anche Sir Francis Younglesbane di Britannia. Oggi che la religione è in ogni luogo brutalmente attaccata, guardiamo all'India, la patria della religione, per avere un segno. E infine citò Sri Sarvapalli Radhakrishna. Questa guerra, quando anche fosse vinta, dimostrerà di essere la causa determinante di altre guerre, se la pace non sarà salvata. La pace si potrà avere soltanto se nazioni dotate di ogni potere non saranno attratte dall'orgoglio e dalla gloria dei loro possessi, che si basano sulla fatica e sul tributo di nazioni più deboli. Questo è forse ciò che Sir Harcourt Butler voleva significare quando disse che i principi dell'induismo contengono gli elementi essenziali della salvezza della civiltà umana. In un'altra citazione tratta da Radhakrishnan, Abai presentò un'altra affermazione che egli stesso aveva scelto come motto del suo giornale. Dobbiamo sconfiggere la tirannia nel reame del pensiero e creare una volontà per la pace del mondo. Gli strumenti destinati all'addestramento della mente e all'educazione della natura umana devono essere usati per sviluppare una corretta prospettiva sociale, senza la quale il meccanismo istituzionale sarà di ben poca utilità. Abai espresse la sua fiducia che le risorse spirituali dell'India potessero essere usate da qualsiasi persona, non solo per accrescere le glorie dell'India, ma per il beneficio del mondo intero. In seguito, egli spiegò le ragioni che lo avevano spinto a iniziare il giornale Back to Godhead. Parlò della lettera da lui scritta 2 settimane prima dalla scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e dell'istruzione ricevuta dal suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese. Prabhupada scrive: in tali circostanze, dal 1936 a oggi, mi sono limitato a chiedermi se dovevo avventurarmi in questo difficile compito, pur non avendone i mezzi e le capacità. Ma poiché nessuno me ne ha dissuaso, ora ho coraggiosamente assunto questo impegno. Nel momento presente, la coscienza mi detta di assumermi la responsabilità di questo lavoro, benché attualmente le difficoltà non siano superate a causa delle condizioni della guerra. Abai dichiarò che le sue affermazioni contenevano soltanto i messaggi trascendentali dei grandi saggi dell'India, soprattutto Sri Chaitanya, e che il suo dovere consisteva solo nel ripeterli come un traduttore. Non doveva fabbricare niente, così le sue parole sarebbero discese come un suono trascendentale per guidare gli uomini sulla via del ritorno a Dio. Ammise che gli argomenti del Back to Godhead, provenendo da una sfera di coscienza totalmente differente, potevano sembrare aridi ai lettori, ma sostenne che chiunque avesse prestato attenzione al suo messaggio ne avrebbe ricevuto un beneficio. È sempre Prabhupada che scrive: lo zucchero candito non sembra dolce a coloro che soffrono di un disturbo della bile. Eppure lo zucchero candito è la medicina per i pazienti biliosi. Se lo zucchero è assunto regolarmente dal paziente allo scopo di curare la malattia, il gusto dello zucchero gradualmente sarà recuperato. Raccomandiamo il medesimo procedimento per i lettori del Back to Godhead. Abai fece in modo di concentrare l'attenzione sul messaggio senza tempo dei Veda, ma lo fece nel contesto della crisi allora in corso. Nel suo saggio, Dio e le sue potenzialità, presentò la testimonianza vedica e l'argomentazione logica per spiegare la natura trascendentale di Dio e dell'anima individuale. Entrambi immortali, pieni di felicità e di conoscenza. Poiché gli uomini hanno trascurato e dimenticato la loro vitale connessione con Dio, non possono conoscere la soddisfazione in questo mondo materiale, che è temporaneo e assediato da inevitabili miserie. In quanto anime spirituali, tutti sono eterni per natura e per questa ragione ognuno cerca di evitare l'assalto dei dolori e dei pericoli che si presentano gli uni dopo gli altri. Il corpo materiale però è destinato alle sofferenze e in definitiva alla distruzione. E Prabhupada scrive: l'esodo dei residenti di Calcutta verso altri luoghi, causato dalla paura di essere colpiti dalle bombe giapponesi, era dovuto alla tendenza insita nell'uomo verso un'esistenza indistruttibile. Tuttavia, coloro che si mettevano in salvo in questo modo non ricordavano che, pur allontanandosi da Calcutta per sfuggire alle incursioni aeree giapponesi, essi non avrebbero potuto porre al riparo i loro corpi corruttibili in alcuna parte dell'universo materiale, quando quegli stessi corpi sarebbero stati assaliti dalle bombe della natura materiale nella triplice forma della sofferenza. Anche i giapponesi, che stavano minacciando la gente di Calcutta con inumani assalti aerei allo scopo di accrescere la loro felicità con il possesso di terre, non sapevano che anche la loro felicità è temporanea e distruttibile, come essi avevano ripetutamente sperimentato nella terra dei loro padri. D'altra parte, gli esseri viventi che sono stati designati per essere uccisi sono per natura eterni, impenetrabili, invisibili. Così tutti gli esseri viventi, sia quelli che subiscono la minaccia di essere uccisi, sia quelli che minacciano gli altri con le loro conquiste, sono tutti similmente situati nella presa della potenza di Maya e si trovano quindi nelle tenebre. Abai scrisse che mai, con i propri stratagemmi, l'uomo potrà sfuggire alle condizioni della distruzione. Così molti capi stanno cercando sollievo dalla guerra, ma tutto è inutile, anche perché i loro tentativi per la pace appartengono all'ambito di una concezione della vita basata sul corpo. I loro tentativi corrispondono al tentativo di far decrescere l'oscurità con l'oscurità. L'oscurità invece può essere rimossa soltanto con la luce. Così Prabhupada scriveva: senza luce nessuna quantità di capacità speculativa della mente umana, che è anch'essa una creazione della natura materiale, può ricondurre gli esseri viventi a una felicità duratura. In quell'oscurità qualsiasi metodo per riportare la pace nel mondo può portare soltanto un sollievo temporaneo oppure dolore, come è possibile constatare in tutto ciò che è stato creato per opera della potenza esterna. Nell'oscurità la non violenza è inutile, come la violenza, mentre nella luce non vi è necessità di violenza né di non violenza. Abai non trattò soltanto argomenti relativi alla guerra, in La teosofia sfocia nel Vaishnavismo, egli criticò i difetti delle idee alla moda della teosofia, che i seguaci di Madame Blavatsky aveva reso popolari in India. In Canto congregazionale egli sosteneva la predizione delle scritture che il movimento di Sri Chaitanya si sarebbe diffuso in ogni città e in ogni villaggio sulla superficie del globo. A partire da questa predizione è possibile sperare che il culto del Sankirtan diventerà in breve tempo una forma universale di movimento religioso. È questa religione universale dove, grazie al canto del nome del Signore, non esiste danno né vi è motivo di contesa. Continuerà per anni, come apprendiamo dalle pagine delle scritture autentiche. Il tema centrale del Back to Godhead era chiaramente l'ordine di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Nella sua copertina, con il ritratto di un pensoso Srila Bhaktisiddhanta, nella sua dedica, nell'affermazione delle finalità del giornale, nella trattazione delle conclusioni, nella sua analisi della teosofia, nella predizione, nella diffusione del Sankirtan. In ogni suo aspetto, il tema del Back to Godhead era l'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vi erano inoltre 4 brevi saggi che erano il contributo di altri devoti, tra cui Bhaktisaranga Goswami. Un annuncio sul retro della copertina spiegava: Gita Upanishad di Abhay Charan De, redattore e fondatore di Back to Godhead. Tre parti, 1200 pagine, dimensione royal, rilegatura in marocchino di prima qualità. Un'esposizione elaborata della filosofia hindu, famosa a livello mondiale, dei Bhagavad Gita, una reale scientifica teistica interpretazione nella linea di successione di discepoli che proviene da Sri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra Puri, Ishvara, Lord Chaitanya, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Krishna Das, Narottama, Biswanath, Baladeva, Jagannath, Thakur Bhakti Vinod, Gorky Shore, Thakur Siddhanta Saraswati, fino all'autore con numerose illustrazioni a colori e tavole tratte da autentiche scritture. Di prossima pubblicazione, prenotazioni anticipate. Prezzo, India rupie 18, estero, lire 1,10. È un secondo e più ampio lavoro su Sri Chaitanya, in due parti, per un totale di 1000 pagine. In realtà nessuno dei due manoscritti era stato completato, ma Abhay esprimeva la sua ansia di sottoporsi a tale vasto lavoro a favore del suo maestro spirituale. Tentando di stampare la seconda pubblicazione del Back to Godhead, Abhay dovette affrontare le medesime difficoltà incontrate in precedenza. Due volte chiese il permesso di acquistare carta di giornale e due volte il governo respinse la richiesta. La carta era requisita a causa della guerra. Il 10 giugno 1944 Abhay scrisse una terza lettera. Con il dovuto rispetto faccio presente che, in seguito all'istruzione di Sua Divina Grazia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, il capo spirituale della Gaudiya Vaishnava, ho fondato un giornale con il titolo Back to Godhead. Il titolo stesso suggerisce la finalità di un giornale come questo, sorto nel pieno della forte inquietudine che il mondo sta ora attraversando. Una copia del medesimo opuscolo è acclusa qui per un gentile e attento esame. Nell'opuscolo troverete rilevanti opinioni mondiali, anche di politici famosi di tutto il mondo, a favore di tale movimento che ha il fine di riportare la società allo stato di salute mediante l'addestramento della mente e l'educazione della natura umana nell'ambito di un progetto spirituale irremovibile, che è considerato esigenza suprema del genere umano. Spero che vorrete trovare il tempo di esaminare minuziosamente il giornale e mi permetto di additare alla vostra particolare attenzione la parte introduttiva. Abhay faceva notare che il consiglio editoriale di Back to Godhead sentiva che più della scarsità di carta si trattava di scarsità di educazione. Cogliendo l'opportunità di predicare, Abhay spiegava che sebbene il supremo fornitore fosse Dio, la persona sovrana, gli atei si considerano i proprietari di ogni cosa. La catastrofe che oggi è di moda nella presente guerra per la supremazia è guidata da questo falso senso di proprietà. È perciò necessario fare propaganda tra gli esseri umani per riportarli alla consapevolezza che il supremo proprietario è Dio. Abai ammetteva che forse in India poteva esservi penuria di carta, ma nei tempi andati egli scrisse: gli indiani illuminati avevano ugualmente sacrificato tonnellate di ghee e cereali nel fuoco dei sacrifici religiosi, e in quel tempo non si avvertiva scarsità di alcun genere. Oggi, invece, il fatto che gli uomini abbiano abbandonato i sacrifici offerti al Signore Supremo sta producendo soltanto carestia. Non possiamo perciò sacrificare poche risme di carta fra tanti enormi sprechi al medesimo fine, cioè quello di ottenere un grande beneficio per il genere umano? Chiedo che il governo voglia occuparsi di questo particolare caso alla luce dello spiritualismo, che non appartiene all'ambito dei calcoli materiali. Anche in Gran Bretagna il governo ha dato un grande sostegno a un movimento simile, definito Movimento per il Riarmamento Morale, senza considerare la scarsità di carta che là è ancora più acuta. Che vi sia soltanto una pagina per la pubblicazione di Back to God non è questo che ci importa, ma la mia fervida richiesta è che il governo dovrebbe almeno permettere una ventilazione dell'atmosfera alla quale il mio Back to God è destinato. Per favore, sottoponete a seria considerazione la mia richiesta e concedetemi di pubblicare anche una sola pagina alla settimana o al mese, come preferite, liberi dal pensiero che si tratti di un ordinario spreco di carta, per amore dell'umanità e di Dio. La lettera ebbe successo. Ora, con velato sarcasmo, egli intitolava la seconda pubblicazione «Grazie al governo dell'India». Egli informava i suoi lettori, molti dei quali erano rimasti addolorati nell'apprendere che il governo aveva limitato la pubblicazione del giornale, che sarebbe stato in grado di far uscire il suo giornale ogni mese. Abai stampò la sua lettera al funzionario governativo competente e anche la risposta che gli garantiva il permesso. I suoi articoli erano più corti e queste circostanze rivelarono l'intuito di nuovi cronisti. Insieme alla critica filosofica, alla verve e a una sfumatura di ironia e di umorismo nel parlare dei leader del mondo e della crisi. La pubblicazione conteneva i discorsi tra Gandhi e Jinnah, il mondo umano e Mr. Churchill, il bramoso desiderio di Mr. Bernard Shaw e amore spontaneo per Dio. I discorsi tra Gandhi e Jinnah. Siamo dolenti di apprendere che i discorsi tra Gandhi e Jinnah a proposito dell'umanità e dell'unità del popolo indiano per il momento abbiano fallito. Abai non era molto ottimista circa il risultato di tali discorsi occasionali tra numerosi capi di comunità. Anche se avessero trovato una soluzione di successo, questa si sarebbe spezzata e avrebbe preso la forma di un altro problema. Essi stavano mirando all'unità tra musulmani e indù, ma in Europa i partiti in lotta erano cristiani e in Asia i partiti erano per la maggior parte buddisti. Tuttavia ancora essi stavano lottando. Così la lotta sarebbe continuata tra musulmani e indù, tra indù e indù, o tra maomettani e maomettani, tra cristiani e cristiani, tra buddisti e buddisti, fino al giorno della dissoluzione. Finché era presente l'interesse egoistico della gratificazione dei sensi, ci sarebbe stata lotta tra fratello e fratello, tra padre e figlio, tra nazione e nazione. Una reale unità poteva esistere solo a livello del servizio trascendentale offerto al Supremo. Mahatma Gandhi, Abai scrisse, è molto al di sopra di un essere umano ordinario e noi abbiamo tutto il rispetto per lui. Tuttavia, egli aveva personalmente consigliato a Gandhi di lasciare le attività situate al livello materiale per elevarsi al trascendentale livello dello spirito. Allora i discorsi a proposito dell'unità dei popoli avrebbero potuto avere luogo. Abai citava la definizione della parola Mahatma data nella Bhagavad Gita. Mahatma è la persona che concentra la propria attenzione sul servizio del Signore Supremo, Sri Krishna. Abai chiese a Mahatma Gandhi di aderire agli insegnamenti della Bhagavad Gita e di predicare il suo messaggio che consiste nell'arrendersi a Dio, la persona suprema, Sri Krishna. In questo modo Mahatma Gandhi, grazie alla sua posizione influente nel mondo, avrebbe potuto procurare un sollievo all'intero universo, pur limitandosi a predicare il messaggio di Krishna della Bhagavad Gita. Dall'articolo Il mondo umano di Mr. Churchill. Siamo compiaciuti di vedere che i leader della politica mondiale, come Mr. Churchill, hanno oggi cominciato a pensare a un mondo umano e a cercare di liberarsi dalla terribile frenesia nazionale dell'odio. La frenesia dell'odio è l'altro aspetto della frenesia dell'amore. La frenesia d'amore dei compatrioti di Hitler ha prodotto la concomitante frenesia dell'odio per altri. E la guerra attuale è il risultato di questo aspetto dualistico. La frenesia dell'amore e la frenesia dell'odio. Così, quando desideriamo liberarci dalla frenesia dell'odio, dobbiamo essere preparati a liberarci dalla frenesia del cosiddetto amore. Questa posizione di libero equilibrio tra amore e odio si raggiunge solo quando gli uomini sono sufficientemente educati. Finché gli uomini non saranno educati a vedere l'anima all'interno del corpo, la dualistica frenesia di amore e di odio si protrarrà e un mondo umano non sarà possibile. Questa introspezione, Abai concluse, è facilmente raggiunta con il servizio a Dio. Così il mondo umano di Mr. Churchill implica che noi dobbiamo tornare indietro da Dio. Back to Godhead. Dall'articolo La bramosia del desiderio di Mr. Bernard Shaw. Mr. Bernard Shaw si è congratulato con Mahatma Gandhi in occasione del suo ultimo 76esimo compleanno con le seguenti parole: posso soltanto desiderare che questo sia soltanto il 35esimo compleanno di Mr. Gandhi invece del 76esimo. Ci uniamo di cuore a Mr. Shaw nel tentativo di sottrarre 41 anni all'età attuale di Mahatma Gandhi. La morte, tuttavia, non rispetta il nostro bramoso desiderio. Né Mr. Shaw, né Mahatma Gandhi e nessun'altra grande personalità sono mai stati in grado di risolvere il problema della morte. I capi di Stato hanno aperto molte fabbriche allo scopo di costruire armi destinate all'arte di uccidere, ma nessuno ha aperto fabbriche per costruire armi destinate a proteggere l'uomo dalle crudeli mani della morte. Benché il nostro bramoso desiderio sia sempre quello di non morire. Un problema che preoccupa gli uomini è quello del pane, benché in realtà tale problema sia risolto dalla natura. Gli uomini dovrebbero risolvere il problema della morte. La La Bhagavad Gita dice che il problema della morte può essere risolto, benché la morte sia presente in ogni luogo del mondo materiale. La persona che mi raggiunge, dice Krishna, non deve più nascere in questo mondo materiale. Esiste un mondo spirituale non distruttibile e chi lo raggiunge non torna più nella regione della morte. Perché i capi di Stato dovrebbero aggrapparsi al pianeta che ha dato loro i natali, dove la morte è inevitabile? Abai concludeva. Desideriamo che nella maturità della loro vecchiaia, Mr. Shaw e Mahatma Gandhi possano unire i loro sforzi per educare gli uomini a trovare il modo di tornare a casa, da Dio. Dopo due edizioni del Back to Godhead, Abai dovette fermarsi, stampare era costoso. Egli tuttavia continuò a scrivere regolarmente, lavorando alla Gita Upanishad, producendo nuovi articoli e spiegazioni filosofiche delle scritture, anche sul quaderno in cui scriveva le sue formule farmaceutiche. Una notte Abai fece un sogno insolito. Srila Bhaktisiddhanta apparve dinanzi a lui facendogli un cenno. Diceva ad Abai di lasciare la casa e di accettare il sannyasa. Abai si svegliò in uno stato di emozione profonda. «È orribile», pensò. Sapeva che questo non era un sogno ordinario, eppure la richiesta gli sembrava così difficile e spiacevole. Prendi il sannyasa. Almeno era qualcosa che non doveva fare immediatamente. Ora doveva migliorare gli affari e con i profitti stampare libri. Continuò i suoi doveri, ma rimase scosso per il sogno. Prendi il sannyasa. Almeno era qualcosa che non doveva fare immediatamente. Ora doveva migliorare gli affari e con i profitti stampare libri. Continuò i suoi doveri, ma rimase scosso per il sogno. Nel 1945, a guerra finita e con l'India ancora in agitazione sotto il governo britannico, Abai intravide l'opportunità di fare affari con maggiore successo. A Lucknow, a 600 miglia da Calcutta, affittò una costruzione e aprì la sua fabbrica. Abai Charande e figli. Questo era un maggiore investimento e richiedeva 40.000 rupie per incominciare. Così egli cominciò a produrre su scala più vasta di quanto non avesse fatto precedentemente. Inoltre, secondo la legge e per garantire di non aver rapporti con il mercato nero e di non abusare di prodotti chimici, dovette impiegare 3 ispettori governativi. Eppure, nonostante il costo elevato, incrementò le vendite e i suoi prodotti erano ricercati. Chiuse la sua piccola base a Calcutta e si concentrò sugli affari di Lucknow. Benché la costruzione fosse notoriamente frequentata dai fantasmi, Abai non era spaventato. Tuttavia, quando le attività ebbero inizio, alcuni dei suoi operai corsero da lui pieni di paura. «Babu, Babu, c'è un fantasma!» Abai allora attraversò l'intera costruzione cantando Hare Krishna e in seguito non vi furono più lamentele. Il 13 novembre Abai scrisse al suo servitore Gauranga, accennando ad alcune delle difficoltà incontrate a Lucknow e chiedendogli di venire ad aiutarlo. In questa lettera parlò con amarezza di Radharani, sua moglie e dei figli. Goranga Prabhu, accetta i miei omaggi. Ho ricevuto la tua lettera del 7. Per mancanza di tempo non ti ho risposto subito. Io sono qui solo, con alcuni servitori. Se me ne vado ora, devo chiudere lo stabilimento. A causa della mia partenza e della chiusura degli affari, una volta persi 10.000 rupie. Anche la mia buona volontà ne aveva risentito e i miei nemici crebbero di numero. Per questo sto lottando, sto praticamente mettendo in gioco tutta la mia vita. Non per niente resto qui solo, in mezzo a tante difficoltà. Per questo ti ho ripetutamente scritto, chiedendoti di venire. Appena ricevi questa lettera, mostrala a Dubra. Fatti dare almeno 10 rupie da lui e vieni qui. Quando sarai qui faremo in modo di inviare denaro alla tua famiglia. Qual è la ragione di esitare con la scusa che non vi sono servitori o domestiche? Ho cercato di servirli abbastanza mantenendo servitori, domestiche e cuochi. Fino ad oggi però essi non si dimostrano attratti dal servizio devozionale, perciò io non mi interesso più di questi affari. Quando sarai venuto, allora io andrò a Calcutta. Se vedrò che si interessano al servizio devozionale, manterrò il mio stabilimento qui, altrimenti non li manterrò più. Portami una trapunta. Tuo Abai. I due interessi, famiglia e predica, erano in conflitto. Radharani non aveva mai manifestato alcun interesse per Back to Godhead. Sembrava che si muovesse in modo da smorzare il suo entusiasmo, sia per la pubblicazione che per il guadagno. La sua impresa si chiamava Abai Charande e figli, eppure i suoi figli non erano inclini ad aiutarlo. Quando aveva chiamato il suo servitore affinché lo raggiungesse a Lucknow, la famiglia aveva mosso obiezioni affermando che Goranga era necessario là. Qual era l'utilità? La famiglia non mostrava interesse né nel sostenerlo né nei suoi affari né nell'accettare la vita del servizio devozionale. E poiché i suoi affari erano la conseguenza primaria della sua vita di famiglia, egli si risentiva per aver dedicato ad essi troppa parte della sua energia. Era la prima legge economica di Marshall che aveva appreso all'università. Senza l'affetto per la famiglia, l'impeto economico dell'uomo è indebolito. Naturalmente doveva esserci un compatibile equilibrio tra servizio alla famiglia e servizio devozionale. Bhaktivinoda Thakura aveva definito due doveri paralleli, i doveri relativi al corpo e i doveri relativi allo spirito. Lo stato sociale, lo sviluppo mentale, la pulizia, il nutrimento e la lotta per l'esistenza erano i doveri relativi al corpo. Le attività del servizio devozionale a Krishna erano spirituali. Essi dovevano avere un andamento parallelo. Nella vita di Bhaktivinoda Thakur, la famiglia era fonte di incoraggiamento spirituale ed egli si serviva della sua posizione sociale per avanzare nella predica. L'esperienza di Abai invece era stata differente. Le due vie sembravano essere in conflitto e ognuna minacciava l'esistenza dell'altra. Egli sentiva di agire un po' come i materialisti che aveva criticato nei suoi scritti, assorti nella lotta per l'esistenza, senza trovare tempo per la realizzazione del sé. Sebbene la sua famiglia aumentasse il numero delle richieste, egli si sentiva meno incline a lavorare per loro e più incline a predicare la coscienza di Krishna. Questa era la situazione. Poteva solo impegnarsi con diligenza, mantenere la sua famiglia, espandere gli affari e sperare in un grande successo che gli permettesse di dare nuova vita alle sue pubblicazioni. Tuttavia la fabbrica di Lucknow sembrava quasi al di là dei suoi mezzi. Egli aveva intenzionalmente cominciato su vasta scala con lo scopo di ricavare un maggiore profitto, ma le spese mensili erano elevate ed egli era rimasto in arretrato con il versamento. e ora era implicato in una questione legale con il proprietario. Benché visitasse regolarmente Calcutta e facesse spedire giornalmente materiali grezzi da Calcutta a Lucknow, vedeva sempre che i componenti della sua famiglia non cooperavano. Anche il suo servitore, Goranga, era riluttante a lavorare quando Abai lo richiedeva e stava pensando di tornare a vivere con la famiglia. Abai scrisse nuovamente a Goranga il 23. Offro i miei più umili omaggi ai piedi di loto dei Vaishnava. Goranga Prabhu, ho ricevuto la tua cartolina del 18-11-45 e tutte le informazioni. Non c'è bisogno che tu venga qui solo per un mese. Non vale la pena di spendere il denaro per dover tornare a casa. Prendi 25 rupie da Dubra e vai a casa. Scrivimi dopo il tuo arrivo, allora ti invierò il resto del denaro in uno o due versamenti, con vaglie postali. In seguito fammi sapere quando potrai venire. Ho iniziato il mio lavoro qui su vasta scala. Hai visto ciò con i tuoi occhi. Così, se non vi è reddito, chi pagherà le spese legali? Ogni cosa pende sul mio capo. Fratello e figli pensano solo a mangiare e a dormire, come un branco di femmine, e mi distruggono. Vai a casa quando ricevi il denaro e cerca di tornare appena è possibile. Tuo Shri Abai Charan De. E siamo così arrivati al sesto capitolo della prima parte della Srila Prabhupada Lilamrita, intitolato Un amico sconosciuto. Gli acuti moralisti mi accusino pure di essere un illuso. Non mi importa. Gli esperti di attività vediche mi diffamino dicendo che mi sono lasciato sviare. I miei parenti e amici dicono pure che sono frustrato. I miei fratelli mi chiamino sciocco. I ricchi adoratori del denaro mi considerino pazzo. E i colti filosofi sostengano che sono un presuntuoso. Eppure, la mia mente non si sposterà neppure di un millimetro dalla determinazione di servire i piedi di loto di Govinda, benché io ne sia incapace. Madhavendra Puri. A parte le difficoltà in cui si trovava coinvolto per gli affari e per la famiglia, Abai dovette sopravvivere ai cataclismi dell'indipendenza indiana e della divisione politica. Egli non era praticamente attivo, ma era uno tra le centinaia e migliaia di individui colpiti dal violento strattone causato dall'indipendenza indiana. Mentre Gandhi e il congresso controllato dagli Hindu chiedevano unità e libertà per l'India, la Lega dei Musulmani guidata da M.A. Jinnah chiedeva la spartizione e una nazione musulmana indipendente, il Pakistan. Il conflitto scoppiò. Nell'agosto del 1946 il governo britannico uscente invitò Jawaharlal Nehru, presidente del partito del congresso, a formare un governo nazionale provvisorio. Tuttavia la Lega obiettò affermando che la causa dei musulmani non sarebbe stata riconosciuta. Jinnah aveva già indetto per il 16 di agosto la giornata dell'azione diretta, che fu scarsamente seguita nella maggior parte dell'India. A Calcutta però essa sfociò nella rivolta tra Hindu e musulmani. In 5 giorni di violenza 4.000 persone persero la vita e più di 1.000 furono ferite. Nei mesi che seguirono la rivolta tra musulmani e Hindu si propagò in tutta l'India. All'inizio del 1947, quando il viceré Lord Mountbatten incontrò i capi politici indiani per pianificare il trasferimento dei poteri, ci fu un nuovo scoppio di violenza per le proteste dei musulmani che chiedevano il Pakistan. Di fronte alla minaccia della guerra civile, il governo alla fine accettò una spartizione e il 18 luglio il progetto dell'indipendenza indiana passò senza contrasti. Un mese più tardi l'India e il Pakistan emersero come stati indipendenti e Jawaharlal Nehru per la prima volta occupò la carica di primo ministro per l'India. La spartizione lacerò l'India, lasciando 5 milioni di Sikh e Hindu in Pakistan e molti musulmani in India. Il grande esodo ebbe inizio. I rifugiati, volando dall'India al Pakistan e dal Pakistan all'India, si scontravano tra loro, compresi i conterranei di fede diversa, e la violenza che ne scaturì reclamava centinaia e migliaia di vite. Srila Prabhupada racconta: il nostro movimento per l'indipendenza era stato iniziato da Mahatma Gandhi per unire tutti i differenti strati di popolazione, ma in realtà il risultato che si produsse fu la divisione invece dell'unità. La divisione si dimostrò così velenosa che mentre un tempo vi erano soltanto sporadiche risse tra Hindu e musulmani, in qualche luogo, ora era in corso una lotta organizzata tra Pakistan e Hindustan. Così, invece di essere stati uniti, noi eravamo stati separati. Gli Hindu volevano andare nelle moschee dei musulmani e farle a pezzi, e i musulmani volevano entrare nei templi dell'Hindu e fare a pezzi gli idoli. Essi pensavano: ho distrutto il dio degli indiani. E anche gli Hindu pensavano: ho fatto a pezzi il loro dio. Erano tutti situati nell'ignoranza. Dio non può essere Hindu, non può essere musulmano o cristiano. Dio è Dio. Nel 1947 abbiamo assistito a una lotta tra Hindu e musulmani. Da una parte stavano gli Hindu e dall'altra i musulmani. Lottavano e morivano. Ma dopo la morte la distinzione tra chi era Hindu e chi era musulmano non esisteva più. Gli addetti municipali ammassavano tutti i loro cadaveri in mucchi e andavano a gettarli in qualche luogo. Lottavano e in Bagh Bazar vi erano cumuli di cadaveri. Quando un corpo è morto, nessuno può capire più chi è musulmano e chi è Hindu. Quello che restava doveva essere soltanto essere portato via dalla strada. Abai non si aspettava che l'indipendenza indiana portasse qualche reale soluzione, a meno che i leaders fossero coscienti di Krishna. Quale cambiamento poteva verificarsi? Ora egli vedeva che invece di soffrire per mano di un governo straniero, gli uomini erano liberi di soffrire per mano dei loro conterranei. Infatti la lotta e la sofferenza erano aumentate. Attraverso quegli anni di lotte politiche in India, Abai non aveva mai perduto il desiderio di diffondere la coscienza di Krishna. Aveva visto che le promesse di unità e di indipendenza avevano portato con sé prezzi più alti e malgoverno. Aveva potuto vedere nei sobborghi, dove per generazioni gli indiani erano vissuti pacificamente, e rompere l'odio e la rivolta, sulla scia delle manipolazioni diplomatiche di inglesi e di indiani. Srila Bhaktisiddhanta le aveva descritte così: Le persone fortemente coinvolte nella presunta consapevolezza di godere del mondo materiale, che per conseguenza avevano quindi accettato come capo o guru un uomo cieco come loro, attratto dagli oggetti dei sensi, non possono capire che l'obiettivo dell'esistenza consiste nel tornare a casa da Dio e nell'impegnarsi al servizio di Sri Vishnu. Come i ciechi guidati da altri ciechi perdono il giusto sentiero e cadono in un fosso, così uomini attaccati alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono legati dalle funi dell'attività interessata, che sono legami molto forti e conducono una vita improntata a un crescente materialismo, soffrendo delle triplici miserie. E così concludiamo la nostra lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato Un amico sconosciuto. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya. State ascoltando Radio Isvara.